perfetto notte estate. Eccoci qui, le 18.33, in regia Valeria Bernardi, in redazione Valentina Ternullo e Alessandro Schirano, al microfono Andrea Ferro. Buonasera, effetto notte estate. Stasera 31 luglio apriamo un'altra pagina del nostro diario di questa estate. Parliamo dell'emergenza sanitaria, parleremo di saldi, di inquinamento e di divieti, di strade e di ponti, di caldo e di traffico, in una giornata un po' particolare sotto questo profilo, e ancora di imprese spaziali, di social e poi della grande, grandissima Franca Valeri, che oggi compie un secolo, e infine di musica con i concerti dei Nomadi. Vi ricordo i numeri per intervenire: 824 00 24 è il numero verde, per SMS e WhatsApp 349 238 6666. E allora partiamo inevitabilmente dall'aggiornamento sull'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 379, ieri erano stati 386, le vittime sono 9, ieri 3, i tamponi effettuati sono stati 68.000, 7.000 in più rispetto a ieri, e i nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto, più 117, in Lombardia più 77. Una sola regione non è nuovi contagiati è la Valle d'Aosta. E come ogni venerdì ci sono le rilevazioni periodiche dell'indice RT, che è l'indice di trasmissione del virus. Quello complessivo nazionale 0,98, ma è sopra 1 in 8 regioni dove si sono registrati recenti focolai. Il Ministero dice che non ci troviamo in una situazione critica, ma ci sono segnali che richiedono una particolare attenzione. C'è un appello a rispetto della quarantena per chi arriva da determinati paesi e per chi comunque viene sottoposto a questo provvedimento sanitario. In caso contrario, avverte la nota del Ministero, nelle prossime settimane potremmo assistere ad un aumento rilevante del numero dei casi a livello nazionale. Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, cosa ci dicono questi dati? L'indice RT è sopra 1 in 8 regioni. Ma guardi, senta, l'indice RT chiaramente tiene conto di situazioni locali e magari risente moltissimo di particolari focolai, quindi sicuramente è superiore a 1 in alcune regioni, ma come detto il Ministero è una situazione ancora sotto controllo, nel senso che finché i focolai vengono identificati, circoscritti e eliminati, facendo il test a tutti quanti, mettendo in quarantena i contatti, i casi sospetti, penso che siamo in una situazione in cui riusciamo ancora a gestire la trasmissione del virus. Ho detto altre volte, qui stiamo in una situazione di equilibrio: da una parte c'è la spinta del virus a trasmettersi e dall'altra c'è la nostra capacità a circoscriverlo. Ora dipende moltissimo da questa dinamica, come si stabilisce il numero di casi di giorno in giorno, e anche chiaramente dal comportamento delle persone. Ecco, il comportamento importante delle persone. Ci sono immagini un po' contraddittorie. In determinate situazioni i controlli sono molto attenti, addirittura severi. Pensiamo a certi ambiti, magari privati, ci misurano la temperatura 2, 3, 4 volte al giorno. E poi magari vediamo le immagini della Fiera di Roma, oggi, dove c'era un test di ammissione per una università, per una facoltà di medicina. Lì erano tutti accalcati, e poi le immagini che arrivano da i treni, per non parlare delle spiagge, si ricorda, professore, si diceva i volontari sulle spiagge, le app con il numero chiuso, tutto questo poi alla fine è stato uno sbragamento totale, parole un po' povere, e purtroppo però ci sono stati anche tanti messaggi contraddittori, e c'è stata la voglia di tanti italiani di dimenticarselo, perché chiaramente hanno sofferto questo lockdown, ci sta questa bellissima stagione, i casi non sono molti, quindi c'è questa, diciamo, ecco, da questo punto di vista sono un po' psicologicamente vulnerabili, no? Chiaramente, e quindi però bisogna mantenere dei messaggi coerenti, cioè il virus purtroppo è ancora tra di noi, sia quello italiano, perché non siamo mai arrivati a trasmissione zero, sia, come ricordava lei, il pericolo di importare nuovi casi, quindi chiaramente le persone che tornano da aree segnalate dal Ministero devono stare in quarantena. Ecco, Ecco, per il bene loro, per il bene della famiglia e per il bene dell'Italia. Ecco, lei prima parlava di messaggi talvolta contraddittori. Evidentemente all'interno, diciamo così, della comunità scientifica ci sono sostanzialmente due scuole. Chi dice che è quasi finito tutto, comunque il peggio è passato e possiamo in qualche modo prepararci ad un ritorno alla normalità, e chi invece dice attenzione, e in parte lei fa parte di questo secondo gruppo, attenzione che non bisogna assolutamente mollare l'attenzione. Ecco, ai colleghi che, diciamo così, sono un po' più ottimisti, cosa dice? Ma guardi, io il problema è questo: io sarei molto ottimista se fossimo preparati per il peggio, perché l'ottimismo deriva dalla capacità di preparazione. Ecco, io un ottimismo così generalizzato, senza mettere in atto tutte le misure e senza verificare la capacità di reagire in caso di focolai di rientro, non condivido questo atteggiamento. Ho detto, io non è che sono ottimista o pessimista, guardi, non è un problema di ottimismo o pessimismo, è un problema di realismo. Di preparazione, esatto, è un problema di preparazione, è un problema di consapevolezza. Ci sono stati ieri 280.000 casi nel mondo, voglio dire, non è che noi abbiamo subito questa epidemia quando ce n'erano 4.000. Ecco, ma perché allora in Francia, in Germania, per non parlare della Spagna, arrivano notizie diverse rispetto ad una situazione come la nostra, nella quale potremmo dire la situazione chiaramente è da non sottovalutare, ma in qualche modo sotto controllo? Perché? Ma guardi, senta, io ho un problema che ho posto. Se c'è una differenza tra l'Italia e la Spagna, l'Italia e la Francia, l'Italia e Israele, che hanno situazioni climatiche e demografiche molto simili, c'è da porsi una domanda: il perché? Allora, può essere che noi siamo di buono, quindi sarebbe importante capire che cosa c'è di buono, perché lo dovremmo estendere e implementare, oppure non contiamo i casi, quindi cioè, facciamo un tampone magari a classi di persone che sono, non sono a rischio, oppure non seguiamo le persone più che hanno più probabilità di infettarsi. Questo, però, ecco, è una domanda da porsi. Ecco. Ecco, nel frattempo noi cerchiamo di ripristinare un collegamento migliore. Chiamo in causa per Luigi Bartoletti, che è responsabile medico delle USCAR, non è un'imprecazione da fumetto. No. Sono le unità speciali, mi dica se sbaglio, unità speciali di continuità assistenziale regionale, così? C'è solo una, sì, la USCAR. Ah, la USCAR, una. Io l'ho declinata dal plurale. Allora, lei in questi giorni così sovrintende ai controlli alla stazione Roma Tiburtina, controlli che vengono eseguiti su base volontaria, lo ricordiamo, a chi arriva da determinati paesi come la Romania e la Bulgaria. Oggi le cose come sono andate? Ma oggi abbiamo avuto parecchie corse soppresse, cioè quindi sono arrivati molti meno pullman e test praticamente abbiamo fatti molto pochi, perché diciamo così c'è stata meno affluenza del previsto. Aspettiamo un altro autobus alle 9 e vediamo quanti arrivano. Ecco, qual è l'atteggiamento di queste persone che in qualche modo si sentono al centro dell'attenzione? Ma guardi, quelli che abbiamo visto noi l'altro ieri, ma sono pochi, perché abbiamo visto l'altro ieri, di fatto, chi è sceso è stato molto collaborativo, diciamo, che non sono stati particolari problemi, perché poi è volontario, quindi siamo medici, non forziamo nessuno. Però in ogni caso chi ha fatto il test, cioè, è sottoposto di buon grado, da ieri cominciano ad arrivare anche segnalazioni di persone che vengono dalla Romania anche con altri mezzi che hanno chiesto di poter fare il test. Abbiamo aperto proprio ieri un drive-in apposta per loro a Forlanini, quindi ci stiamo, perché il problema era che non arrivano soltanto con gli autobus, arrivano anche con altri mezzi di trasporto. Eh sì, questo indubbiamente è complica e al tempo stesso dà un senso ai controlli, e solo rivolgersi a chi arriva con l'autobus inevitabilmente depotenzia questa capacità, è chiaro. Però diciamo che da qualche parte bisogna iniziare. Certo. No, è chiaramente ci mancherebbe. Poi non si possono controllare chiaramente tutte le persone che stanno per raggiungere l'Italia, tanto più in questo momento di grandi spostamenti. Ritorno da Crisanti. Crisanti, arrivano tanti messaggi di questo tipo, ma i migranti sono un pericolo? I migranti sono un pericolo? Guardi, se lei fa riferimento ai richiedenti asilo... Sì, mi riferisco chiaramente ai migranti concepiti come quelli che arrivano sbarcando sulle nostre coste. Guardi, ce ne sono di due tipi, diciamo, quelli che stanno arrivando adesso sulle nostre coste e quindi dovrebbero essere controllati, perché chiaramente hanno vissuto una situazione difficile di promiscuità, di assembramento, e quindi chiaramente potenzialmente vengono da aria a rischio, quindi non abbiamo nessun controllo e penso che dovrebbero italiani che sono qui da diversi mesi, e questa secondo me è una comunità che abbiamo un pochetto trascurato, perché non sono stati mai testati, e poi improvvisamente adesso scopriamo che magari ci sono intere comunità infettate. Questo non è sicuramente colpa loro, questi sono infettati perché li abbiamo passati noi, ecco, sono due categorie sì, diverse. Chiaro, chiaro. Ecco, Bartoletti, ho letto che sono partiti, o comunque stanno per partire, test molecolari rapidi. Sì, dobbiamo, appena ce li consegnano, pensiamo domani o lunedì mattina, iniziamo a fare sia il sierologico rapido che il test biomolecolare rapido. Questo quindi fornisce elementi ancora più forti, diciamo di certezza o meno del contagio? Ma diciamo sì, insieme ci hanno ragione sia della possibile carica infettiva nell'orofaringe, ma sia del fatto che ci siano presenze di anticorpi. Quindi è chiaro che è più accurata come valutazione. Ma questo viene fatto anche per mettere in sicurezza le persone che fanno il test. Insomma, è chiaro che è un'unità di sanità pubblica. Noi cerchiamo di essere accoglienti come paese ospitante di queste persone, proponendo dei test che vanno bene assolutamente per proteggere la comunità italiana, ma proteggere anche le loro comunità. Crisanti, su un giornale, il New York Times, non proprio un giornale qualunque, Krugman elogia l'Italia, gestione seria e addirittura sofisticata. È un po' un complimento, no? Penso che tutto sommato l'Italia abbia fatto bene, chiaramente, anzi devo dire che quello che si sta facendo adesso per identificare i focolai, circoscriverli e eliminarli, non ce lo scordiamo, l'abbiamo scoperto noi come fare. Siamo noi che abbiamo stabilito quali sono i protocolli, non so se si ricorda, ma all'inizio c'erano soltanto i sintomatici. Siamo stati noi che abbiamo scoperto la grande importanza degli asintomatici, che adesso tutto il mondo improvvisamente se ne accorge. È chiaro, se c'è stato un focolaio, si testano le persone che si stanno male, e si testano a partire tutti i contatti, parenti, amici, intere comunità. E questa è la strategia che si sta rivelando vincente, sia in Italia che nel resto del mondo. Quindi, ecco, direi che in assenza di terapia e in assenza di vaccino, sicuramente, ecco, la ricerca italiana e la sanità italiana hanno dimostrato come si può fare a circoscrivere l'infezione. Bartoletti, qualcuno dice che a Roma, riceviamo anche messaggi in questo senso, c'è una sostanziale rilassatezza di fronte alle norme preventive, tanto più se si compara questo atteggiamento rispetto a quello che avviene in altre città. Lei che è di Roma, cosa dice? Ma oddio, diciamo che onestamente è come un fuoco che cova sotto la cenere. Diciamo i ragazzi, magari le persone più giovani, chi è, diciamo così, ha vissuto il lockdown in maniera un po' più pesante, nei posti della movida esagera, ma abbiamo avuto anche l'assessore che ha richiamato molto spesso alla prudenza. Le persone di mezza età, cioè gli anziani, continuano ad essere molto prudenti e non rilevo comportamenti, diciamo così, che sono comportamenti pericolosi. Ce l'abbiamo nelle persone più giovani, ce l'abbiamo anche col fatto che è comprensibile, non è certamente giustificabile, infatti noi raccomandiamo sempre che in questo momento non bisogna essere né allarmisti né negazionisti, bisogna essere prudenti. Questa è un'infezione che circola, sta circolando, riusciamo a contenere i focolai, a tracciare i singoli contatti, e finché riusciamo a fare il tracking della situazione, la situazione è sotto controllo. Crisanti, prego, mi perdoni se lo interrompo. No, se si sottovaluta il problema e perdiamo il filo, cioè il tracking, cominciano i problemi veri. E noi questo non possiamo permettercelo, perché non possiamo permetterci di richiudere il paese e di limitare le attività produttive e commerciali. Crisanti, c'è chi dice, o meglio lo diceva già da tempo, che bisogna riaprire gli stadi quando il campionato riprenderà. Ah, peraltro non è ancora chiaro quando questo avverrà. Lei come la pensa? Penso che così diamo un'opportunità al virus, se vogliamo dargliela. Penso che l'apertura degli stadi, delle discoteche, è la cosa giusta da fare. Chiarissimo. Oltretutto oggi, ora c'è la notizia che da oggi i treni ad alta velocità viaggiano al 100% dei posti. Secondo lei è un provvedimento ormai compatibile con la situazione? Ma guardi, senta, questo dipende chiaramente. I treni ad alta velocità sicuramente hanno dei ricambi d'aria molto frequenti, quindi se i viaggiatori tutti quanti utilizzano le mascherine, penso che il rischio è relativamente basso, così come in aereo. visto il ridente basso, perché ci sono molti ricambi d'aria, perché chiaramente tutti utilizzano la mascherina, perché il personale di bordo si preoccupa che queste misure vengano adottate. Situazione completamente diversa purtroppo nei pullman, dove c'è sovraffollamento, pochissimo ricambio d'aria e non c'è personale che si assicura che le misure di prevenzione vengano adottate. Guardi, noi abbiamo avuto dei casi appunto di persone che venivano dalla Romania che erano infette e hanno infettato tutto il pullman fondamentalmente. Ecco, quindi è chiaro che ci sono rischi diversi a seconda dei mezzi di trasporto che si vendono. Crisanti, con l'apertura delle scuole ci dovrà essere un'attenzione massima, si parla di scaglionare in qualche modo i movimenti nelle città, non sarà semplice però. No, guarda, io penso che l'apertura delle scuole sarà una grandissima sfida di carattere logistico, organizzativo, ma anche scientifica, perché dovremo capire come fare in modo che le attività formative riprendano, perché è nell'interesse della società che riprendano, e riprendere in condizioni di sicurezza. Penso che saremo in una situazione in cui verranno tentate diverse soluzioni, non sappiamo, nessuno sa ancora qual è quella giusta, guardi. Beh, però tra un poco iniziano le scuole, ora non iniziano tra due settimane. Come lei sa, io ho sempre proposto una soluzione basata principalmente sia sull'aspetto educativo, ma principalmente sull'aspetto della valutazione del rischio, perché se noi mettiamo dei ragazzi e gli imponiamo tutte le misure restrittive e di prevenzione passiva dentro la scuola, poi attraversano la strada e fanno quello che gli pare, è chiaro che tutto quello che noi applichiamo sulla scuola non ha pochissimo valore di prevenzione, ha soltanto, diciamo, un valore così, chiamiamolo così, di carattere assicurativo, per dimostrare che la scuola non è un luogo di contagio, ma non ha poi nessun impatto dal punto di vista della trasmissione. Quindi io penso invece che bisognerebbe fare sì che tutti i ragazzi abbiano la vaccinazione influenza, in modo da diminuire la confusione, il panico e il caos durante la stagione invernale. Dopodiché bisogna misurare la temperatura a tutti i ragazzi, ma anche qui bisogna misurare, se uno ci crede che la temperatura è importante, bisogna farla in maniera standardizzata. Non si può pensare che milioni di famiglie misurino la temperatura con migliaia di dispositivi completamente diversi, chi sotto l'ascella, chi nel camorale, chi nella fronte, cioè non è una cosa. E anche con strumenti che oggettivamente talvolta io da volte mi dicono lei ha 32, dico è un miracolo. Sì, esatto, quindi con strumenti affidabili. E poi penso che bisogna anche agire sulla prevenzione e valutazione del rischio. Se ci sono dei ragazzi che sono residenti in aree dove ci sono focolai attivi, indipendentemente se stanno bene o stanno male, non dovrebbero andare a scuola, non dovrebbero recarsi a scuola, perché costituiscono un potenziale fonte di contatto. Grazie, mi perdoni, la interrompo, ma sono completamente fuori tempo, e che erano molto interessanti chiaramente i dettagli che emergevano dalle vostre testimonianze. Andrea Crisanti, grazie, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova, e grazie anche a Pierluigi Bartoletti, responsabile medico della USCAR. Effetto notte estate. E ora andiamo negli Stati Uniti. Riccardo Barlam, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, Riccardo, innanzitutto la situazione oggi dalle tue parti. Allora, la situazione coronavirus, in questo momento c'è un'audizione alla Camera dei rappresentanti, dove il dottor Fauci, il virologo americano, ha detto che ci sono speranze che questo vaccino fantomatico arrivi entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo, quindi una buona notizia, diciamo. Però hanno anche detto che la situazione così è, purtroppo negli Stati Uniti è stata definita una catastrofe sanitaria. Oggi il conto parla di sono raggiunti 4,5 milioni di casi, con l'aumento nelle ultime 6 settimane. I morti sono 152.000 e praticamente da 2 giorni c'è un morto ogni minuto negli Stati Uniti, 1.500 morti, più o meno con un aumento del 60% nelle ultime 2 settimane circa. E gli esperti, in modo un po' cinico, dicono che la cosa era prevista, perché con l'aumento ovviamente dei ricoveri molti alla fine non ce la fanno. E il problema è sempre quello qui dell'applicazione, come ricordava prima l'esperto, come ha ricordato oggi il presidente italiano, delle misure di protezione, che al momento sono le uniche cose che salvano la diffusione. E qui negli Stati Uniti ieri è morto questo Herman Cain, che è un manager. Ecco, questo signore era stato consigliato da Trump, era uno dei sostenitori di Trump, era stato al comizio di Tulsa in Oklahoma, che doveva essere la ripresa dei rally elettorali, dove Trump aveva consigliato ai suoi sostenitori di andare senza mascherina e distanziamento, anche se poi lui è protetto dalla sua rete di agenti segreti, e lui era uno di quelli che era andato lì senza mascherina. Si è ammalato in quell'occasione il 19 giugno e non c'è più adesso. In qualche modo lo piangiamo, però questa è un po' la storia di questo paese. E oggi c'è Bill Gates che dice: sono inutili i test negli Stati Uniti, i risultati arrivano troppo tardi. E la verità è che, come dimostrano sia l'andamento della pandemia, ma anche i dati sull'economia, ieri c'è stato questo dato sul trimestre, sul PIL, che ha avuto il calo peggiore dal 1947, da quando si registrano questi dati, quasi il 33%, un crollo totale, e che in questo grande paese, che è la prima potenza mondiale, qualcosa non ha funzionato in termini di leadership. Quindi i numeri lo dimostrano, non è tanto un discorso ideologico di repubblicani o democratici, ma qui c'è in ballo, come dire, la vita delle persone, il lavoro, l'economia, e quindi se questa cosa non viene affrontata in modo unitario ci sono questi problemi che ci sono negli Stati Uniti. Basta girare per le strade per accorgersene. Questo attacco hacker, che si dice appoggiato dalla Cina contro il vaccino Moderna, la Cina smentisce, allora, però c'è qualche novità la oggi, Cina, no? Dice, qualche novità, l'azienda Moderna, che è questa società di Boston, che è una delle tante che stanno sviluppando i 100 vaccini, non è solo Moderna in realtà che sarebbe stata presa di mira da questi hacker cinesi, ma secondo l'FBI sarebbero altre 3 aziende. E cosa dire, questa azienda ha in qualche modo ha confermato di aver ricevuto questo avviso a inizio anno dall'FBI di, appunto, l'attività di alcuni hacker, e fa parte di questa faccenda della vicenda più grande della guerra tra Cina e Stati Uniti. E il discorso sarebbe lungo, ma insomma si potrebbe dire questo per riassumere in poche parole: pochi giorni fa il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno detto che nel 2024 prevedono, e tra l'altro la Banca Mondiale guidata da un americano, ci sarà il sorpasso dell'economia cinese su quella americana. Finora tutte le amministrazioni americane, da Nixon in poi, che ha aperto i rapporti bilaterali con la Cina, hanno cercato di avvicinare la Cina alla comunità internazionale, quindi cercando di aiutarla a superare tutti i problemi che ha, perché è uno stato autoritario, la censura, lo spionaggio, tutti questi problemi che ci sono. L'atteggiamento di Trump è, come sapete, è un atteggiamento diverso, sta cercando di rallentare in qualche modo una cosa che è già scritta, e quindi non so cosa dire. Qualche giorno fa c'è stata la chiusura per lo stesso motivo di un consolato cinese a Houston, in Texas. E poi queste prove non vengono mai esplicitate, quindi non sappiamo. Continueremo, molto probabilmente continueremo a parlarne, sarà un po' anche questo un tormentone all'interno dell'emergenza. Grazie a Riccardo Barlam, corrispondente da New York per il Sole 24 Ore, incombe il GR delle 19, questa sera in conduzione Anna Migliorani. Quello che cerchi nel tuo business, cercalo anche per la tua auto. Guida la nuova BMW Serie 3 Touring senza acquistarla con il leasing YBuy. Da 240 euro al mese. TAN 0,99, TAEC 2,90. E dopo un anno puoi rifinanziarla, cambiarla o restituirla. Offerta valida fino al 30 settembre su vetture disponibili subito. Salvo approvazione BMW Financial Services. Fogli informativi su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Questo è un drago più che un dinosauro, veramente la natura ha superato la fantasia umana. Questi ipermemory hanno un'ipermemoria autobiografica e ricordano tutto quello che hanno vissuto durante la loro vita. Si dovrebbe riassumere un attimo che cosa diavolo è l'economia circolare, perché non ce n'è un'idea molto chiara. Prendiamo dalla natura delle componenti vive per dare più funzionalità ai robot. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di ricerca, di tecnologia e di innovazione. Ne sentirete delle belle. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Vi aspettiamo da lunedì al venerdì alle 13.30 e in replica anche sabato e domenica. Ovviamente qui su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Effetto notte estate. Le 19.14, ancora buonasera ad Andrea Ferro, riprendiamo il nostro racconto della giornata e ora parliamo di saldi. L'emergenza sanitaria e il lockdown hanno alterato un po' tutte le scadenze, anche quella appunto delle vendite promozionali. In genere, come ricordiamo bene, i saldi scattavano i primi giorni di luglio, però quest'anno avrebbe voluto dire praticamente vendite promozionali poche settimane dopo la riapertura dei negozi. E così inizialmente la conferenza Stato-Regioni ha fissato lo slittamento al 1 agosto, poi si sa in Italia è tutto quasi sempre un po' emendabile, alcuni presidenti delle regioni hanno deciso di anticiparli e così in alcune città sono già iniziati da alcuni giorni, da lunedì, in altre scatteranno domani, appunto il 1 agosto. Come sempre le vendite nei periodi dei saldi costituiscono un indicatore economico interessante e tanto più quest'anno, in un'estate così particolare. Vi presento gli ospiti, Maria Luisa Coppa, Ascom Torino, buonasera. Buonasera, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori. Luigi Ferrario, presidente delle vie dello shopping di Milano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Fabio Tinti, presidente Fismo Confesercenti, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Allora, Torino e Milano sono due città dove i saldi sono iniziati già da giorni, allora misuriamo per così dire la temperatura delle vendite promozionali. Maria Luisa Coppa, Torino, come vanno le cose? Ma intanto devo dire che c'è stato proprio un po' di confusione sull'inizio, sul giorno d'inizio, però noi siamo partiti lo scorso sabato, quindi il 25, quindi possiamo già fare un primo punto di riflessione sulla prima settimana, che abbiamo visto un aumento di circa il 10% rispetto alle vendite delle settimane precedenti, quindi un andamento devo dire abbastanza in media con la situazione generale di crisi. Certo voglio ricordare che il settore abbigliamento è stato colpito pesantemente, perché quando siamo andati in lockdown avevano appena ricevuto le collezioni primavera-estate, quindi alla riapertura il 18 di maggio c'era veramente, ecco, quindi sono comunque saldi molto molto interessanti per la clientela. Perché ci sono comunque molti capi, ecco. Cioè si fanno degli affari in sostanza? Si fanno degli affari, ecco, se ne potrebbero fare molti di più se le vendite fossero un po' più abbondanti. A Milano com'è, Luigi Ferrario, presidente delle vie dello shopping? Guardi, a Milano la situazione è in linea con quello che diceva il collega di Torino, quindi rispetto allo scorso anno registriamo un calo nella prima settimana del 50% circa. Sicuramente è una situazione appetibile per i consumatori, che invito a fare shopping perché veramente ci sono degli affari, e questo è l'unico dato incoraggiante per chi fa acquisti, diciamo. E la cosa però insomma difficile è che manca il turismo. Il turismo oggi su Milano è fermo e la situazione pertanto è abbastanza complicata, ma siamo soprattutto rimasti un po' delusi, come diceva anche la collega di Torino, dal fatto che non c'è stata uniformità nella partenza dei saldi. I saldi hanno anche un'importanza a livello mediatico, sicuramente sarebbe stato più auspicabile se su tutta Italia fossero partiti insieme, quindi secondo me sarebbe stato sicuramente meglio partire tutti insieme il 1 agosto. Tinti, insomma un po' di confusione non sta aiutando, però no, diciamo esatto. Così. Esatto. Se la si fa da soli è già un momento difficile, quindi tenere una linea sicura e certa secondo me in questi momenti sarebbe doveroso. Ecco, a livello nazionale, visto che abbiamo ascoltato due testimonianze dal nord-ovest, a livello nazionale, in quelle regioni dove, nelle altre regioni dove i saldi sono già partiti, dal vostro osservatorio più o meno viene ricalcato quello che abbiamo sentito da Milano e da Torino, ci sono situazioni locali in qualche modo significative? Giammè? Sì, certo, Tinti, certo. Ah, sì, scusi. Prego. Ma sì, sostanzialmente sono in linea con gli interventi che mi hanno preceduto. I dati in termini percentuali sono quelli che dicevano i colleghi. Mi vorrei inserire sull'ultimo intervento che abbiamo sentito, proprio perché noi come Fismo nazionale, insieme anche a come Confesercenti, anche Confcommercio, abbiamo fatto una battaglia molto importante nella conferenza Stato-Regioni per posticipare i saldi quest'anno al 1 agosto 2020. Ed era auspicabile, però poi, come diceva proprio lei all'inizio, ogni regione poi ha l'autonomia di decidere come meglio credere, che tutte la data di inizio dei saldi fosse stata quella a livello italiano, a livello nazionale, del 1 di agosto, proprio per le ragioni che ascoltavamo prima, proprio perché siamo stati fermi, chiusi forzatamente in lockdown due mesi e mezzo, proprio perché abbiamo la quasi totalità dei negozi, insomma, dei colleghi a scorte di magazzino invendute in quei mesi e poco vendute purtroppo dal 18 maggio ad oggi, e quindi il tentativo di poter vendere a prezzo pieno per quello che è stato possibile, insomma, in questi mesi di apertura dal 18 di maggio ad oggi, è quello di garantire quantomeno la vendita e un minimo di redditività alle nostre aziende. Quello che ci aspettiamo da domani, nella stragrande maggioranza delle regioni, è quello di riuscire proprio a questo obiettivo, di garantire un obiettivo di appetibilità anche per i consumatori, con vendite con scontistiche importanti, con prodotti di qualità che comunque tutti i nostri negozianti, i nostri associati, tutti nel settore abbigliamento, moda, calzature hanno in negozio, per dare una certa spinta, diciamo così, anche al recupero di quei mesi che abbiamo purtroppo perso. Coppa Torino, Ascom Torino, come si approcciano i clienti nei negozi? C'è qualcosa di diverso rispetto al passato, chiaramente indotto da questo tempo così speciale che stiamo vivendo? Certamente uno dei punti sul quale il settore abbigliamento si interroga è anche cercano di interpretare quali possano essere le nuove tendenze di consumo delle famiglie, anche in considerazione del fatto che di solito il momento dei saldi coincideva con la partenza per le vacanze, e quindi insieme ai turisti che naturalmente mancano non sappiamo ancora bene come vada l'effetto vacanza, perché di solito ci si compra qualcosa prima di partire per le vacanze, e quindi c'è da parte del settore innovativo, del settore abbigliamento, una grande tendenza a capire appunto dove va il mercato, e naturalmente anche all'innovazione, perché è chiaro che mentre noi eravamo fermi tutto il mercato, l'e-commerce è andato avanti con grande diversità tra l'economia reale e l'economia digitale, e quindi questo sicuramente è un momento di grandissima riflessione. È chiaro che nei prossimi giorni si vedranno anche le tendenze delle famiglie italiane, quelli che andranno veramente in montagna, al mare, e quelli che invece rimarranno a casa. In questo momento nel nostro fine settimana non facilita nemmeno il clima, perché abbiamo effettivamente un fine settimana torrido, e sappiamo che è un settore molto sensibile anche alla situazione meteorologica, però insomma ci auguriamo, i nostri negozi saranno aperti molto di più rispetto al passato, perché si deve recuperare quello che non si è fatto nei mesi passati, per cui anche ad agosto molte nostre imprese saranno aperte proprio nella ricerca di poter fare quello che non si è fatto prima. Luigi Ferrario, Milano, Corso Buenos Aires, la pista ciclabile 600 metri, nelle scorse settimane, o per meglio dire nei mesi scorsi, ci sono state un po' di polemiche, lei non era contrario, no? No, io personalmente non ero contrario, come avevo già asserito, purtroppo dobbiamo renderci conto che sta cambiando il mondo, quindi noi dobbiamo andare incontro come operatori del settore a quelle che sono le esigenze della clientela. Se la clientela, la cittadinanza oggi va in una direzione di una mobilità diversa, secondo me è giusto che anche noi operatori commerciali non dobbiamo opporci, ma dobbiamo seguire l'onda e cavalcare la tigre. Questo è il nostro lavoro, e soddisfare quello che sono le esigenze della clientela. La clientela giovane, la clientela diciamo che popola il corso Buenos Aires è cambiata, la mobilità è cambiata, le modalità di fare shopping sono cambiate e chi non si adegua ai cambiamenti purtroppo, come Darwin insegna, tende a distinguersi. Quindi chi non vuole estinguersi deve assolutamente capire che ci troviamo in uno scenario nuovo. Quello che emerge oggi, soprattutto dai negozi sempre in corso Buenos Aires, è che c'è una grande ricerca di socialità, quindi vinceranno quelle aziende, quei negozi che non solo andranno ad offrire dei prodotti interessanti, ma che sapranno dare un'esperienza a chi va a fare acquisti nei loro negozi. E questo è un dato molto importante, perché chiaro, i prodotti sono uguali, ma l'esperienza di acquisto no. Certo. E quindi torna ancora in auge quello che è il consiglio del commerciante e dare un servizio anche post vendita. Molto importante. Beh, è chiaro, questo differenzia chiaramente la vendita diretta dall'e-commerce, che ha avuto uno sviluppo irrefrenabile negli ultimi tempi, e chiaramente con il lockdown c'è stato un ulteriore balzo in avanti delle vendite. A questo proposito, Fabio Tinti, secondo lei c'è il rischio che questa tendenza chiaramente favorevole all'e-commerce possa strutturalmente penalizzare le vendite al dettaglio? Ma sicuramente sì, l'abbiamo visto nei mesi di chiusura del lockdown, lo stiamo vedendo, lo vedevamo anche prima, insomma, questa crescita esponenziale in termini di numeri positivi da parte dell'e-commerce e tanti colossi che magari hanno sede nei paradisi fiscali, anche se non lo vogliamo dire, ma lo dobbiamo dire, che non ci sono normative anche a livello nazionale che prevedono anche la famosa web tax, insomma, interventi anche a garanzia per noi cittadini italiani, che anche questi colossi che vendono all'e-commerce possono contribuire in qualche modo, oltre che per i posti di lavoro che fortunatamente e in maniera importante offrono nel nostro paese, contribuire anche in altri metodi. La domanda, sì, possono danneggiare. Ora, i negozi, le botteghe nei centri storici, nei centri urbani hanno un valore in più, lo diceva quello che il signore che mi ha preceduto, sono presidi territoriali, c'è un rapporto diciamo sì, anche confidenziale con il cliente abituale, e questo è un valore che non va assolutamente perso. Noi chiediamo anche a livello nazionale che ci siano sostegni anche da parte sia delle regioni che dello Stato, anche sulla digitalizzazione anche dei negozi, un contributo importante per poter creare non tanto concorrenzialità, perché non ce la potremo fare, siamo piccoli negozi, ma tutti insieme facciamo dei numeri, ma che comunque sia ci siano strumenti di sostegno affinché anche dal nostro punto di vista la nostra vendita sia aiutata e sostenuta in termini anche di formazione, perché ci si affacci sul mercato dell'e-commerce, con cosa che tanti fanno, cosa che tanti hanno fatto sfruttando tra virgolette, in termini naturalmente negativi, anche i mesi di chiusura, ci sono cimentati anche nei vari profili di natura diversa, utilizzando i social media, e qualche piccolo risultato lo danno, ma non è sicuramente paragonabile a quello. Beh, è chiaro. Maria però. Luisa Coppa, mi perdoni, sotto il profilo delle norme sanitarie, io l'altra volta sono andato a comprarmi una maglietta in un negozio, me la sono provata come ho sempre fatto, in un altro mi ha detto lei non la può provare. Evidentemente non tutti applicano le stesse norme. Sì, qualcuno le intende più rigide, qualcuno no, ma naturalmente... Ecco, ma cosa dovrebbe fare però? Cosa dovrebbe fare? Perché si diceva non si possono provare i capi, ricordo mesi fa che i negozi riaprono, però non potete misurarvi. Ma questa era una delle questioni che sembrava fosse così, no? Quindi sembrava che non si potessero misurare i capi, invece... i vincoli che ci sono adesso sono entrati in vigore, sono poi stati quello del distanziamento, quindi nei negozi possono entrare un numero limitato di persone, e naturalmente la disinfezione delle mani prima di entrare, ma poi naturalmente il capo si può provare, ecco, questo capita praticamente in tutti i negozi. Ecco, questo però va anche detto perché francamente sono circolati messaggi un po' diversi e secondo me questa confusione talvolta può anche frenare un pochettino la marcia di avvicinamento verso i negozi. Allora, io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti in questa parte di Effetto Notte Estate: Fabio Tinti, presidente di Fismo Confesercenti, Luigi Ferrario, presidente delle vie dello shopping di Milano, e Maria Luisa Coppa, Ascom Torino. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Notte Estate. 19:32:32, riprendiamo il racconto della nostra giornata, sfogliamo un'altra pagina del nostro diario, andiamo nel bacino padano, cioè nella macro area che comprende Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Il 1 ottobre qui avrebbe dovuto scattare lo stop anche per i veicoli Euro 4 diesel, che lo ricordiamo sono quei veicoli immatricolati a partire dal 2006. La stessa sorte era toccata negli anni scorsi ai mezzi di classi inferiori, ma ieri in videoconferenza gli assessori all'ambiente delle quattro regioni hanno deciso di prorogare il provvedimento al 1 gennaio 2021. Presento gli ospiti di questa parte di Effetto Notte Estate. Matteo Marnati, assessore all'ambiente della Regione Piemonte, buonasera. Sì, buonasera a tutti, grazie. Grazie a lei. Alessandro Miani, presidente di SIMA. SIMA è la Società Italiana di Medicina Ambientale, lei è anche professore di prevenzione ambientale alla Statale di Milano. Miani, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora Marnati, perché questa decisione? Ma la decisione l'abbiamo presa alla luce ovviamente di quanto è accaduto quest'anno. Ci sono stati mesi di lockdown, mesi molto complicati in questo momento per il tessuto economico. Ha detto soprattutto lei all'inizio, diciamo, le quattro regioni tra le più importanti non solo a livello italiano ma a livello europeo. Come PIL abbiamo una percentuale importante e in questo momento bloccare l'Euro 4, io parlo per i numeri piemontesi, sono circa 400.000 auto Euro 4, potrebbe diventare problematico. Quindi abbiamo preso questa decisione, ma questo non vuol dire che non prendiamo in considerazione l'ambiente, nel senso che c'è un piano di rientro, chiamiamolo così, per le emissioni, che noi dobbiamo uscire dall'infrazione entro il 2030 e lo faremo con altre misure. C'è anche l'aspetto dell'agricoltura, del riscaldamento, della biomassa che emette polveri sottili, non c'è solamente il traffico, l'ha dimostrato durante il lockdown che nonostante tutti fossimo a casa le polveri sottili non sono scese, e poi se volete vi spiego anche i motivi e quindi certo, insomma, certo. Questa decisione è alla luce di quanto è avvenuto. 3 mesi servono un attimo per insomma aiutare e portare avanti tutte le misure, tra cui noi siamo usciti oggi proprio con la rottamazione dei veicoli per le aziende, che è un incentivo importante per sostituire le automobili più vecchie. Miani, cosa dice lei di questa proroga? Io dico che quanto sta dicendo giustamente l'assessore, una delle poche volte in cui mi trovo d'accordo con un assessore dell'ambiente, no, però è corretto. Il punto è questo, è che questi mesi di lockdown sono stati un laboratorio incredibile per verificare l'impatto dell'uomo sull'ambiente. Alcuni dati erano già noti, magari non così puntuali, ma erano già noti. Il traffico è tra le sorgenti principali di inquinamento atmosferico, ma non è la sorgente principale, per cui se si vuole agire in maniera complessiva sul bacino padano, che come sappiamo è il più inquinato d'Europa o tra i più inquinati d'Europa, bisogna agire non solo andando a indebolire quelle che sono forse in un momento anche di crisi economica le classi più deboli, che debbono, si trovano poi costrette a non poter utilizzare l'auto e quindi magari ad avere ulteriori problemi sul lavoro. Poi peraltro in un momento come questo, in cui non si sa ancora cosa sarà ad ottobre, novembre, dicembre o comunque nei prossimi mesi, se ci sarà una ripartenza o meno della pandemia, e abbiamo comunque uno stato d'emergenza ancora fino ad ottobre inoltrato. Marnati, questo, prego, no, scusa. No, ci mancherebbe, no, l'ho interrotta in maniera poco educata, quindi no, tocca a lei proseguire, assolutamente. Si figura, ecco, l'augurio nostro, sapendo bene quanto male fa a livello di salute complessiva, e i numeri purtroppo sono molto molto preoccupanti in Italia, quanto male fa l'inquinamento atmosferico è che il decisore, in questo caso sono le regioni e quindi gli assessori, come l'assessore della regione Piemonte, prendano realmente per una volta in maniera definitiva sul serio la tematica e l'impegno sia netto e che ovviamente deve prevedere, come diceva l'assessore, anche degli incentivi, partire dalle aziende fino ad arrivare all'utente privato nel momento in cui si fanno delle misure restrittive di questo tipo. Marnati mi parlava di polveri sottili, che voi siete arrivati, diciamo così, a qualche conclusione interessante? Sì, allora, tutti hanno sempre detto che bastavano i blocchi del traffico. Noi l'abbiamo avuto il blocco del traffico quasi totale nei mesi di marzo e aprile, un po' principalmente al nord, però in tutta Italia, e i dati di ARPA hanno segnalato che le polveri sottili non sono scese, cioè meglio, erano quasi come quelle del 2019, nello stesso periodo marzo-aprile. Perché? Perché le polveri sottili, come dicevamo prima, non dipendono esclusivamente dal traffico, ormai questo è abbastanza acclarato, ma dipendono da tanti fattori. Poi quest'anno c'è stato due cose che hanno cambiato, diciamo, la storia: lo smart working e poi c'è stato, questi qui sono eventi rari, però succedono, come la tempesta del deserto africana che ha portato le polveri sottili nel nostro paese. Lo smart working, che sembra una misura che potrebbe aiutare, nel senso che la gente stando a casa non prende l'auto, ma nei periodi invernali abbiamo visto che stando tante persone a casa aumenta il riscaldamento. Aumentando il riscaldamento abbiamo ancora anche le caldaie vecchie o abbiamo impianti a biomassa che sono praticamente quelle a pellet o i camini, e questo provocano un aumento delle polveri sottili. Invece c'è un altro inquinante che sono gli ossidi d'azoto, anche questi sono problematici, sono quindi una delle procedure di infrazione, nel senso che siamo sopra i limiti di legge, questi invece sono calati con il blocco del traffico. Quindi la cosa è molto più complessa di quanto possa apparire. Io sto cercando, attraverso anche ARPA, uno studio scientifico, uno studio anche matematico, perché noi oggi prendiamo le decisioni di bloccare le auto in base solo esclusivamente alle polveri, alle PM10 e non agli ossidi d'azoto. Quindi forse c'è da studiare meglio la situazione. I dati che abbiamo avuto sono molto importanti per prendere nuove decisioni. Miani, lei a marzo finì su un po' tutti i giornali un suo studio. Non solo suo, però lei, diciamo, in qualche modo fu portavoce di questo gruppo di lavoro. Eravamo chiaramente nella fase più drammatica dell'emergenza e lei, diciamo così, iniziò a parlare delle conseguenze dell'inquinamento sulla diffusione del virus. C'è qualche elemento nuovo rispetto a marzo? Gli unici elementi nuovi sono state le pubblicazioni scientifiche, che all'epoca non c'erano perché era solo un position paper, quindi una piattaforma aperta alla discussione scientifica nazionale ed internazionale. Questa c'è stata, poi gli studi sono andati avanti, siamo arrivati a diverse pubblicazioni e lo stesso position paper è già stato accettato per pubblicazione su BMJ e dovrebbe essere pubblicato a giorni. Quello che abbiamo trovato sono state tracce di RNA virale sul PM10 di Bergamo, dove avevamo dei campionatori d'aria ad alto volume con cui abbiamo appunto trovato questo RNA virale, che noi, diciamo, in una fase ancora iniziale, adesso SIMA ha messo in piedi una task force internazionale che è guidata da noi, ma che comprende gruppi di ricerca, tutte le principali università dei quattro, diciamo, di tutti i continenti, ecco, del mondo, e quindi stiamo andando avanti con i campionamenti dell'aria sia indoor che outdoor e approfondendo quelli che sono gli studi. Comunque abbiamo visto che bene o male anche le recenti lettere inviate all'OMS, le prese di posizioni internazionali anche di altri gruppi di studio, si sta parlando chiaramente che il virus è airborne, il che non significa ancora una certezza che possa essere trasportato vitale dal particolato, ma comunque una correlazione tra alti tassi di particolato e incidenza di malattia, incidenza di morti, incidenza di situazioni più gravi, questo oramai è abbastanza acclarato. Se posso aggiungere una cosa rispetto a quello che diceva l'assessore prima, noi non abbiamo mai Non abbiamo mai appoggiato le direttive del blocco del traffico, anzi spesso e volentieri le abbiamo osteggiate perché riteniamo che siano, diciamo, non risolutive. Abbiamo sempre detto cose diverse, almeno come SIMA, ovvero sia l'esempio che io faccio spesso e volentieri, stando all'incirca su quelli che sono i numeri percentuali, se noi blocchiamo solo il traffico come risoluzione dell'inquinamento atmosferico, è come se in una stanza in cui 10 persone fumano chiediamo a 3 di uscire, con questo pensiamo di aver risolto il problema. Dice bene l'assessore, il discorso dei riscaldamenti, della combustione dei riscaldamenti è la prima sorgente emissiva, però non bisogna dimenticare la seconda, che sono gli allevamenti intensivi. A seguire c'è il traffico veicolare. Grazie, grazie all'assessore all'ambiente della Regione Piemonte, Matteo Marnati. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci, a presto. Grazie, ci risentiremo senz'altro per aggiornare anche le notizie che riguardano questo argomento. Poi Alessandro Miani, presidente di SIMA, che è la Società Italiana di Medicina Ambientale ed è anche professore di prevenzione ambientale alla Statale di Milano. Professore, buonasera. Grazie a lei, buonasera a te. E allora, alle 19.42, ormai 43, mi mangio un po' le parole stasera, andiamo in Sicilia, o meglio parliamo di ponti. A Genova lunedì sarà inaugurato il nuovo ponte sul Polcevera. A questo proposito racconteremo in diretta la cerimonia di inaugurazione, io sarò collegato da Genova, qui in studio ci sarà Enrico Pagliarini. E in Sicilia oggi però è stato inaugurato un altro ponte, il viadotto Imera, siamo nel territorio di Scillato. Il ponte di Genova è stato costruito in meno di 2 anni e comunque sarà inaugurato meno di 2 anni dopo la tragedia del 14 agosto 2018, lo ricordiamo, con la morte di 43 persone. Questo viadotto invece è stato, diciamo, inaugurato, anche se si è trattato di un'opera un po' diversa, dopo 5 anni abbondanti, ed è stata un'inaugurazione un po' tormentata. C'è stata anche una polemica tra la regione e il ministero. Ora, per farla breve, non vi leggo le dichiarazioni, però sostanzialmente non è stata una festa condivisa da tutti. Gli ospiti di questa parte di Effetto Notte Estate sono Valerio Mele, che è responsabile ANAS Sicilia. Buonasera. Mele, c'è? Non c'è. Pino Bulla, Assotir Sicilia Autotrasportatori. Buonasera. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Grazie. Mele, io cerco di ripristinare il collegamento con Mele. Sì, c'è? Buonasera. Eccoci qua, Mele. Buonasera, grazie. A lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Allora, la domanda è banale. 5 anni non sono stati un po' troppi per rimettere a posto questo ponte, che, lo ricordiamo, non era proprio venuto giù, ma c'era stato il cedimento dei piloni di alcuni piloni in seguito ad una frana. Ripeto, 5 anni non sono stati un po' troppi? 5 anni sono senz'altro troppi. La cosa che è importante sottolineare è che il ponte Imera è stato ricostruito interamente con procedure ordinarie. Infatti, a seguito della frana che ha colpito la carreggiata a direzione Catania, è stata ripristinata in 4-5 mesi con procedure commissariali, una viabilità provvisoria, una bretella che ha permesso in parte di risolvere il problema del traffico, e poi c'è stato il lungo processo autorizzativo, processo di affidamento di lavori, di gara. Infatti sui 5 anni i lavori alla fine sono durati meno di 2 anni e sono stati tra l'altro ritardati da 2 eventi importanti: da un lato la crisi finanziaria dell'impresa che ha fornito le carpenterie metalliche e dall'altro l'emergenza Covid, che comunque ha portato un rallentamento di circa 3 mesi, quindi ha portato l'apertura che avevamo previsto per la prima metà di maggio, l'ha portata oggi. Ecco, Pino Bulla, lei è rappresentante della categoria degli autotrasportatori. Fare l'autotrasportatore in Sicilia è più difficile che altrove, perché la rete dell'isola, parliamo chiaramente della rete stradale, è sostanzialmente quella di tanti, tanti male. Anni fa. È messa male, 5 anni sono stati troppi, da qualsiasi angolo lo si veda. La situazione perché per anni di manutenzione, la persona che mi sta ascoltando che è in diretta lo sa perfettamente, privi di manutenzione per anni questa autostrada, e poi abbiamo riscontrato il cedimento quasi totale del ponte, l'abbiamo chiamato pure Chimera, quando sono passati gli anni e il problema non si è mai risolto. Finalmente è stato messo in piedi, però ne abbiamo molte cose da dire e io ne vorrei approfittare per dire che la situazione, se da una parte con la Catania-Palermo non è soltanto il viadotto Imera. Imera, sono, ripristiniamo il nome. Imera, sì, certamente, ma sono tanti altri lavori che finalmente sono stati messi in atto e per ripristinare in maniera dignitosa l'autostrada. Ma abbiamo un problema serio, che è l'altra, che è la Messina-Palermo. La Messina-Palermo è oggetto di indagine in diversi punti, indagine anche della magistratura, che la dice lunga, del pericolo e dei rischi che chi attraversa, chi percorre quella strada sa benissimo. Ma non ci fermiamo lì come autotrasportatori. Noi abbiamo da oltre 20 anni la questione Ragusa Catania-Ragusa, la si fa o non la si fa, una volta si bloccano le carte in un posto, un'altra volta un ministero, un'altra volta da un'altra parte, fatto sta che sono passati più di 20 anni e di questa benedetta autostrada che tanto bisogno abbiamo non solo come trasportatori ma i cittadini in genere, non se ne parla, progetti rifatti addirittura. Poi abbiamo anche la Gela Catania sulle stesse condizioni. Non parliamo della Catania Messina. La interrompo un attimo perché chiaramente il Cahier de Dolans è lunghissimo, comprendo chiaramente sì, che sì, per chi sì, vive. Sì, è lungo quanto il ponte di Messina. Ecco, sì. tanti cantieri, c'è stata appunto una coda polemica oggi in seguito alla inaugurazione del viadotto Imera o Chimera, come lo chiama Bulla. Ecco, si può fare un po' più in fretta in queste situazioni, in questi cantieri per garantire. Se mi permette un'osservazione. Prego. Ovviamente non mi esprimo, non parlo della Palermo-Messina o della Messina-Catania perché non sono autostrade in gestione ANAS. Sicuramente sulla Palermo-Catania noi siamo ben consapevoli di quello che diceva Bulla, di questa difficoltà dovuta a tanti anni in cui i fondi per la manutenzione sono stati pochi. È un'autostrada realizzata all'inizio degli anni 70, dove però ANAS da 2 anni a questa parte ha messo in atto un piano straordinario di manutenzione che ha l'obiettivo di riportare la strada alla piena funzionalità. Oggi abbiamo oltre 20 cantieri attivi, abbiamo triplicato la spesa per manutenzione programmata su tutta l'isola, quindi, e soprattutto sulla Palermo-Catania. Quindi, come ha detto anche oggi il Ministro, c'è da soffrire perché ci sono i cantieri e c'è gente che lavora. Ma l'obiettivo chiaramente è quello di rimettere in piena funzionalità e in sicurezza tutta l'autostrada Palermo-Catania. Pino Bulla, autotrasporto, dicevo prima, è una condizione difficile questa per gli autotrasportatori con una rete che è un po' una corsa ad ostacoli sostanzialmente. Cosa significa però in concreto per un'impresa di autotrasporti dover allungare i tempi di percorrenza? Presumo sono costi in più e poi una perdita proprio anche di concorrenzialità rispetto alle imprese delle altre regioni, no? È così? Certamente sono costi notevolmente maggiori, anche perché se non ci si aggiorna, il dottore Meli mi può dare atto, se non ci si tiene in costante aggiornamento ci si va anche a impantanare e spesso per fare un tragitto di 100 km noi andiamo a farne il doppio e quindi nascono problemi di varia natura e lì ci condiziona il cronotachigrafo, tanto per non andare lontano. Poi ci sono le aziende che magari hanno degli orari particolari per cui impediscono all'autotrasportatore di poter rientrare perché possibilmente magari non riescono a scaricare, e tutti questi problemi nascono sempre nella stessa regione. Io parlavo poc'anzi delle altre due tratte di autostrada, che è vero che non coinvolge l'ANAS, coinvolge il CAS, no? Ma sempre lì siamo. Grande difficoltà e soprattutto ci dà da pensare e molta preoccupazione le condizioni della Messina-Palermo, lo ribadisco. a parte le altre autostrade che ancora ho scorrimenti veloci, che ancora sono cantieri aperti, vedisi il Caltanissetta-Agrigento, ancora da completare la Catania-Siracusa con il versante del sud Sicilia. È una regione insomma che avrebbe bisogno veramente di un grande piano infrastrutturale per rendere appunto competitive le imprese dell'autotrasporto, ma chiaramente il discorso non riguarda solo l'autotrasporto, riguarda l'intero tessuto economico e anche turistico, perché chiaramente è una regione ad alta vocazione turistica della Sicilia. Allora io ringrazio gli ospiti che ci hanno raccontato la loro testimonianza a proposito di strade in Sicilia, cioè Valerio Mele, che è Mele, che è responsabile ANAS Sicilia, buonasera. Arrivederci, grazie, buonasera a lei. E Pino Bulla, Assotir Sicilia, buonasera anche a lei. Grazie, a risentirci. Grazie. Allora, sulle strade in qualche modo rimaniamo, l'ultima giornata di luglio, venerdì, giornata di spostamenti, anche se non siamo ancora in un regime, diciamo così, da bollino nero, siamo verso il bollino rosso e così. Stefania Zabrak. Buonasera, sì, diciamo che siamo su un bollino giallo in realtà, perché fortunatamente quest'oggi non abbiamo ancora avuto queste manifestazioni di grande esodo che sono previste, in realtà più per domani mattina, e invece il bollino nero sarebbe previsto per l'8 sabato, l'altro. Esatto, nella mattinata di domani. Queste sono le previsioni. C'è da dire però che una situazione è sicura purtroppo già da tempo e oggi è stata ulteriormente confermata, ed è quella del nodo Ligure. Dov'è la notizia, dov'è la notizia, esatto, è solo una conferma, purtroppo la soluzione non c'è ancora stata della situazione in questa zona. Abbiamo tuttora delle code, soprattutto sulla 26 Genova Gravellona-Toce, il tratto interessato è quello tra Mazzone e l'innesto con la 10, sono ancora lunghe le code, così come sulla A10, la Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano, e sulla A12 Genova Rosignano, il tratto è quello tra l'innesto con la 7 e Rapallo. Questi purtroppo sono disagi che non hanno una soluzione a breve termine, quindi sicuramente faranno parte delle notizie del weekend. E sì, poi ci sarà il problema del rientro, no? Chiaramente dalla domenica. Problema del rientro, sì, che sinceramente anche questo è visto più intorno alla mattinata di domenica 16 e di sabato 22. I bollini rossi previsti sono questi. C'è da dire che per cercare di migliorare un po' la situazione, tutti i venerdì dalle 16 alle 22, così come i sabati dalle 8 alle 16 e le domeniche dalle 7 alle 22, sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti. Questo appunto dovrebbe rendere un po' più fluida la circolazione, visto che soprattutto in prossimità dei cantieri la presenza dei mezzi pesanti può creare ulteriori disagi. Grazie. Quindi, Stefania Zabrak dell'agenzia Audio Traffico, grazie, buona serata. Grazie. E allora dalle previsioni del traffico a quelle del tempo, Paolo Corazzon, 3B Meteo, ciao, buonasera. Buonasera Andrea, qua si parla di bollini rossi e come, forse anche di bollini neri volendo, perché caldo davvero pesante per tutto il fine settimana. Domani sarà probabilmente la giornata peggiore di questa ondata di caldo, domani ancora una volta supereremo i 35 gradi all'ombra, ma in alcune città, anche Roma ad esempio, farà i 38 gradi all'ombra, e poi mettiti al sole, poi conta anche un po' d'umidità, insomma sulla pelle si sentiranno anche più di 40 gradi in mezza Italia. Quindi, e questa praticamente, sì, scusa se ti interrompo, è la prima ondata di caldo africano, così, sì, no? Volendosi, per quest'anno sì, tutto sommato fino ad ora era andata anche bene. E guarda, ti dirò, le previsioni, anche se sono solo una tendenza per agosto, non sono drammatiche da questo punto di vista. Magari rischia di essere la più intensa delle ondate di caldo di quest'anno. Speriamo, insomma, agosto sarà bello, ma senza eccessi. Fatto sta che domani dopo però si soffre, ma alla fine di domenica temporaloni al nord, il problema è che potrebbero essere oni questi temporali, e poi lunedì si replica sempre al nord altri temporali, a quel punto lunedì al nord si respira, e poi martedì aria più fresca arriva anche al centro-sud, con meno temporali lì, però almeno rinfresca un po', e a quel punto si starà benino, dai, avremo una, diverse giornate nella norma. Dai, ho letto un po' di agenzie in queste ore, relative peraltro alla serata, alle prime ore del giorno di oggi. Sono stati anche problemi di maltempo, nulla di clamoroso, però già. Sì, sono temporali in realtà di calore, ma possono essere molto forti. In Lombardia abbiamo avuto grossi problemi con anche esondazioni e paesi evacuati, perché appunto c'è tanta umidità e tanto calore che è benzina per i temporali. Quindi anche quelli che teoricamente potrebbero essere temporali innocui diventano delle bombe in questi casi, e quelli di domenica sera rischiano di essere potenti anche quelli, attenzione. Quindi bisogna stare molto attenti, purtroppo questa è un'estate ma non è la prima caratterizzata da questi episodi abbastanza estemporanei, che però possono avere una violenza particolare soprattutto in un'area circoscritta. Ahimè, abbiamo imparato a definirle bombe d'acqua e in qualche modo non so se è una definizione in qualche modo accettata nell'ambito scientifico, però assolutamente no, però rende l'idea. Purtroppo sono sempre più frequenti questi episodi, si inquadra tutti in un discorso più generale di cambiamento climatico, però abbiamo reso comunque la situazione in maniera telegrafica ma puntuale come sempre. Grazie Paolo Corazzon, Trebimeteo. Grazie a te, buona serata. Grazie, ciao. Allora ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo con Effetto Notte Estate. Effetto Notte Estate. Manca qualche secondo alle 20 e a quest'ora facciamo il punto sulle notizie del giorno. Partiamo chiaramente dagli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 379, ieri 386, le vittime 9, ieri 3, i tamponi effettuati 68.000, e come ogni venerdì ci sono le rilevazioni periodiche dell'indice RT, che è l'indice di trasmissione del virus, quello complessivo nazionale è 0,98, ma è sopra 1 in 8 regioni dove si sono registrati recenti focolai. L'appello del Ministero: massima attenzione, la situazione non è critica, ma massima attenzione. Nel secondo semestre crollo record del PIL, meno 12,4%, per l'Istat è una contrazione senza precedenti, il ministro Gualtieri dice meglio del previsto. A settembre dobbiamo tornare tutti a scuola in presenza, perché la didattica digitale è stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, aggiungendo che il concorso straordinario per 32.000 posti verrà fatto entro la prima settimana di ottobre. Nei prossimi giorni una nave arriverà in Sicilia per consentire di trasferire a bordo i migranti che sbarcano sulle coste italiane e che devono essere sottoposti a quarantena. La nave, che molto probabilmente sarà ormeggiata al largo di Lampedusa, potrà ospitare tra i 600 e 700 migranti. Il Consiglio di Stato ha sospeso l'effetto della sentenza del TAR del Lazio, che consentiva l'accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico sull'emergenza Covid. La decisione è stata presa con decreto cautelare monocratico in attesa della valutazione del collegio convocato per il 10 settembre. Omicidio-suicidio in un appartamento di Vinovo, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, una guardia giurata ha ucciso la sua compagna e poi si è tolto la vita. E ora andiamo su Marte con... Andiamo Enrico Pagliarini, buonasera, andiamo su Marte? Sì. Ma magari, andiamo. Buonasera. Chiaramente noi rimaniamo con i piedi per terra. Sì, c'è anche chi probabilmente di fronte all'offerta potrebbe anche dire di no, perché ci vogliono 6 mesi. Per arrivare? Eh sì, vabbè, e poi 6 mesi per tornare. Ci metto 6 mesi per andare a Genova. Per andare a Genova, battuta... Fin banale, abbiamo sentito peraltro che sarà un weekend non semplice pure dalle mie parti. Allora, provando a fare i seri, è stata lanciata la missione Mars 2020 della NASA, che stanno facendo? Allora, questa è una delle tante missioni che stanno andando su Marte, dico tante perché negli ultimi giorni, vista la posizione favorevole del pianeta, sono partite almeno 3 missioni. Una, ed è una prima assoluta, degli Emirati Arabi, che si presentano in questo club di nazioni che stanno tentando di andare su Marte, o che sono andate o che stanno tentando di andare su Marte, e poi è partita una missione cinese e ieri questa missione americana della NASA, Mars 2020, arriverà, a proposito di quanto tempo ci si impiega ad arrivare, il 18 febbraio 2021. È una missione dove è previsto l'atterraggio, o meglio, l'ammartaggio. Ammartaggio. L'ammartaggio, ah. Sì, l'atterraggio sulla Terra, certo, l'ammartaggio, certo, l'allunaggio, certo, sulla allunaggio, Luna. Sì, sì, adesso, sai, io non... Ci metto un po'. Non vado oltre sugli altri pianeti. Il 18 febbraio, allora, dicevo, che cosa è previsto? Questa sonda sta trasportando un rover, siamo abituati a questi mezzi che si muovono con ruote, un rover simile a Curiosity, non so se ti ricordi. Vagamente. Curiosity è stato lanciato nel 2011, come altri rover, la NASA ne ha già lanciati 4, questo è il quinto, e come altri rover doveva durare pochi mesi, in realtà Curiosity è ancora lì che funziona e sta mandando informazioni a Terra. Ma oltre a questo nuovo rover che si chiama Perseverance, quindi Perseveranza, ci sarà per la prima volta anche un piccolo elicottero che servirà per fare esplorazioni. A che cosa serve questa missione? Vari sono gli obiettivi. Il primo obiettivo è studiare, come già stanno facendo altri strumenti scientifici sul pianeta rosso, la possibilità che Marte abbia ospitato la vita, ma pensando anche alle future missioni marziane che la NASA pensa possano essere fatte anche con umani nel prossimo decennio, verranno testati alcuni materiali con i quali si pensa di fare le tute dei, sì, per gli equipaggiamenti, sì, sì, sì, ho e letto. Poi una cosa molto bella è che questo rover raccoglierà dei pezzi delle rocce, e sempre per essere studiati, e queste rocce potrebbero essere portate sulla Terra in una delle prossime missioni. Ci vorrà ancora molto tempo. Beh, i tempi sono comunque un po' dilatati. Esatto, cioè ci vogliono una decina di anni per portare a terra queste la rocce. Racconteremo, no, Enrico? Sì, sì, siamo qua pronti. E poi, visto che tu sei un po' il nostro grande esperto di tutto quello che è sviluppo, tecnologia, modernità, in questo senso però lo decliniamo sui big dell'high tech, l'antitrust, come abbiamo seguito ieri, ha messo sotto accusa Amazon, Apple, Facebook e Google, sostanzialmente hanno troppo potere. Ah, questo è un dibattito che va avanti da anni, un dibattito che sta, diciamo, esplodendo nelle ultime settimane con un po' più di vigore negli Stati Uniti. Non so francamente che cosa porterà questa accelerazione che c'è negli Stati Uniti. Infatti, devo dire che allora, sicuramente è giusto che si trovino delle forme di regolamentazione che l'Unione Europea ha tentato di cercare negli anni passati, che sta ancora oggi cercando per questo mix di potenzialità che questi big della rete hanno. Però devo anche dire che, a proposito di antitrust, penso che gli Stati Uniti debbano anche guardare alla Cina, dove ci sono società gigantesche che possono mettere in crisi, cioè se tu prendi alcuni provvedimenti nei confronti di queste società americane potresti creare anche un problema dal punto di vista geopolitico, certo, perché i cinesi mica stanno a pensare che le proprie aziende creino problemi di antitrust. Quindi penso che sia un terreno molto minato, una strada molto stretta, e non so che cosa francamente pensare. Ecco, un flash, giusto per completare questo notiziario, sì, dedicato all'high tech: Facebook e Google dovranno pagare i media tradizionali per pubblicare i loro contenuti, lo stabilisce, o quantomeno lo annuncia, la Commissione Australiana, sì, per la Concorrenza e Consumatori. E per quanto riguarda questa questione molto delicata del diritto d'autore, è una notizia interessante. Sì, anche qui però sarei un po' più prudente. I titoli giornalistici annunciano Facebook e Google dovranno pagare. No, in realtà c'è una proposta, anche qui stiamo parlando di un... Hanno l'annuncita anche in Australia. Sì, un rapporto molto conflittuale, molto difficile tra gli editori, tra i detentori di copyright e i grandi big della rete. In Europa ci stiamo provando, perché lo scorso anno, il 7 giugno, è entrata in vigore una direttiva europea che dovrà essere recepita entro 2 anni, quindi parliamo del giugno del 2021, da tutti i paesi membri, che tenta di regolamentare questo rapporto. Questa direttiva punta a far sì che i grandi della rete possano, ci siano le condizioni perché paghino i detentori del copyright, quindi banalmente gli editori e tutti coloro che hanno diritto d'autore su cose che circolano in rete. Però da qui a dire che Google, Facebook e tutti gli amici loro della Silicon Valley paghino gli editori o tutti i detentori, gli autori per tutto quello che gira in rete, la vedo un po' difficile. Vedremo, perché l'Italia deve recepire questa direttiva e da lì si capiranno molte cose. Grazie Enrico, grazie Bagliarini. Ciao, ciao. Grazie, chiaramente ti ritireremo in ballo per affrontare queste situazioni. Fuori dalla scatola. Sì, dalla squadra, e poi ti mandiamo su Marte. Esatto. Tanto ci vediamo tra sei mesi. No? Benissimo. Ciao. Grazie, ciao. Grazie Enrico Bagliarini. E ora cambiamo radicalmente argomento, rimaniamo strettamente sulla terra. Parità di genere, con il caso Puglia che in qualche modo riporta la questione al centro dell'attenzione. Nei giorni scorsi il Consiglio regionale non ha approvato l'introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale, appunto, regionale. È intervenuto il governo, oggi pomeriggio c'è stato un Consiglio dei Ministri. Elena Bonetti, ministra per le pari opportunità e la famiglia, buonasera. Buonasera. Allora, cosa avete deciso, visto che è stato decisivo sostanzialmente l'intervento del governo? Sì, è stato approvato un decreto legge che quindi è autoapplicativo, appena pubblicato, diciamo, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che sancisce che anche in Puglia si dovrà votare con l'espressione della doppia preferenza di genere. Il principio della parità di genere è un principio di presidio democratico per irrinunciabile previsto dalla Costituzione. Il governo aveva chiesto più volte al Consiglio regionale della Puglia di adeguare, come era previsto per legge, il loro regolamento, diciamo, con questa indicazione. Non è stato fatto, è stata inviata una diffida e quindi il governo ha applicato adesso il principio di potere sostitutivo, affermando, e questo è il passaggio politico importantissimo, che la parità di genere è un elemento a presidio dell'unità giuridica della nazione. E quindi un governo che afferma fortemente e concretamente che sulla parità di genere non si può e non si potrà prescindere, a partire dall'espressione elettorale della Puglia. È una battaglia che abbiamo raccolto da tante donne che si sono davvero spese in modo forte. Io mi sento di ringraziarle, credo che stasera si sia rotto un altro pezzo di quel soffitto di cristallo che impediva nel nostro paese una piena espressione del protagonismo femminile nella nostra società, ed è un'assunzione di responsabilità che in quanto Ministra delle Pari Opportunità mi sono sentita di dover raccogliere e portare avanti, e sono riconoscente, perché poi tutto il governo, insomma, su questo ha fortemente sostenuto questo indirizzo, a partire dal Presidente del Consiglio. Però il fatto che sia stato necessario l'intervento del governo in qualche modo è un segnale che fa riflettere. È un segnale che fa riflettere sul fatto che non c'è stata una capacità nel livello istituzionale pugliese, del Consiglio regionale, della Presidenza, di poter portare a termine questo principio. Mi lasci dire in modo invece positivo che è un fatto che sancisce invece non solo una volontà di questo governo, una formazione di questo governo di rimuovere quegli ostacoli che di fatto impediscono una piena parità di genere nella nostra nazione, ma un governo che sa tradurre questa intenzionalità in concretezza, ovviamente cercando le alleanze nel paese, che penso che d'ora in poi dovremo sempre più auspicare possano andare nella direzione di questo principio, e quindi auspico che anche le altre regioni che non si sono ancora adeguate lo facciano al più presto. Lei è anche ministra della famiglia, rassicuriamo le famiglie, il 14 settembre riprendono, o meglio, riaprono le scuole? Sì, il 14 settembre. Ne avete parlato anche oggi in Consiglio dei Ministri? C'è stato un punto su questo punto? Non abbiamo fatto un punto specifico su questo. Oggi ci sono invece c'è stato un passaggio importante sulle linee guida per lo 06, che è un percorso che ha guidato, insomma, il Ministro dell'Istruzione, che a breve quindi saranno pubblicate. Sul 14 settembre il Consiglio dei Ministri si era già espresso nelle sedute precedenti, approvando questa data come data di inizio nazionale. Dal 1 settembre ci saranno le attività di recupero dei debiti formativi, insomma, perché sappiamo che questo è un altro elemento importante, non solo per le famiglie, ma pensando ai giovani e ai bambini del nostro paese che ci sono comunque degli elementi di recupero, perché la didattica certamente online ha certamente come dire, aiutato in questi mesi, ma non è stata in grado di coprire pienamente quelle potenziali, diciamo, differenze anche di carattere formativo. E quindi, siccome vogliamo davvero garantire pari opportunità per tutti, dal 14 settembre dobbiamo fare in modo che i ragazzi tornino a scuola anche avendo avuto un periodo e un percorso di avvicinamento per sanare queste difficoltà che si siano eventualmente evidenziate. È emerso qualcosa in termini di emergenza sanitaria? Oggi sono arrivati anche i dati relativi all'indice RT, dati che non sono allarmanti, però indicano che bisogna stare molto attenti. C'è stato sotto questo profilo qualche elemento di novità da parte vostra? Guardi, in realtà da parte del governo c'è costantemente l'attenzione rispetto ad un atteggiamento complessivo che dobbiamo mantenere. Il virus non è scomparso, questo lo sappiamo. Abbiamo organizzato diciamo, una ripartenza che sia possibile, ovviamente cercando di mantenere tutte le regole. Quindi io l'invito che mi sento invece di fare è esattamente questo. Continuiamo ad avere reciprocamente quella responsabilità che riconosce, nel rispetto delle regole che ci siamo dati, la possibilità di custodirci e anche di far ripartire il paese, perché è chiaro che non ci potremmo permettere e non ci vogliamo permettere, insomma, un altro periodo tragico come quello che abbiamo vissuto. Quindi bisogna ripartire, è possibile farlo, l'importante è farlo nel rispetto delle regole, quindi con coscienza e responsabilità reciproca. Grazie Elena Boletti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, grazie e buona serata. Grazie a lei, buonasera. Bene, allora ci fermiamo un attimo, poi ritorniamo insieme per l'ultima parte di Effetto Notte Estate. Effetto Notte Estate. Buongiorno commendatore. Di che umore è oggi? Buono, canticchiava. No, non ti preoccupare, soldi non gliene do più. Ci sta telefonando alla mamma. Mamma, mi ascolti? Fallirà. Lo manderò in campagna a guardare la fattoria, se sarà capace. Brava, mi divido, così poi devo passargli anche gli alimenti. E poi, mamma, me l'hai data tu questa educazione religiosa. Ma no, mamma, non è sfortunato. È un incapace e un megalomane. Figurati che adesso si vuol mettere contro la Montecatini, non so, vero? Ma vogliamo dire la verità una volta per sempre? Io ho sposato un cretino e me lo tengo. Ognuno ha la sua croce, pazienza. Non ho raddoppio! Mammina, prendo il letto stasera e domattina sono da te. Sì, mammetta, vai piano col poker. Ciao mammetta, ciao. Chiaramente l'avete riconosciuta, è l'immensa Franca Valeri che oggi compie un secolo di vita. Marta Cagnola, buonasera. Volevo salutarti con una buonasera cretinetti. Vabbè, lo prendo. Mi fa piacere, me lo tengo. Visto che avete scelto il meraviglioso vedovo. Alessandro Schirano e Valentina Ternullo hanno fatto tutto loro. Hanno fatto tutto loro e hanno scelto molto bene. Uno dei film più belli interpretati da Franca Valeri, ma un'attrice che ha interpretato Il segno di Venere, Parigi o Cara, Piccola posta, ecco, ha davvero recitato in alcune delle commedie più preziose del cinema italiano, poco premiata. Ecco. Eh sì, perché obiettivamente rispetto alle altre, diciamo così, dive del cinema della sua generazione, non ha avuto poi la stessa celebrità, la stessa considerazione. Forse le esperienze televisive in qualche modo l'hanno un po' delegittimata rispetto ai big della scena. Allora, devo dirti che ci sono due aspetti. Uno, il fatto che comunque lei fosse un volto, una grande interprete di commedie in anni in cui il grande attore era quello drammatico, e quindi l'attore delle commedie ci ha messo un po' più di tempo a far brillare la propria stella. E poi lei era un personaggio popolarissimo alla televisione e anche alla radio, e questa cosa in alcuni anni un po' lontani, diciamo che i cinefili non la perdonavano moltissimo. Per fortuna che il tempo le ha dato ragione, non solo regalandole una vita lunghissima, ma anche una carriera, sì, con pochi premi, ma con tantissime soddisfazioni. La televisione, il cinema, il teatro, le regie dell'opera lirica, che sono state una delle sue grandissime e immense passioni, poi anche i libri, insomma, è davvero stata capace di tutto nei suoi 100 anni di vita, Franca Valeri. E poi quello che è sempre piaciuto a voi, questa capacità appunto di non prendersi mai sul serio, e forse alla fin fine forse poi ha pagato anche un po' questo, no? Il fatto di non fare la diva. Io credo che questo sia un grandissimo insegnamento che possa valere in tutte le carriere, in tutte le vite, il riuscire a prendersi con grande leggerezza, a guardare gli altri con uno sguardo ironico e divertito, cogliendone i difetti senza cattiveria, riuscendo a prendersi in giro da sola, riuscendo a guardare gli altri davvero con la sua aria divertita, leggera, però anche acuta, profonda. Io sto scegliendo il film da vedere questa sera. Qual è? E ce ne sono talmente... Non lo so, guarda, sto meditando perché Il Vedovo era uno dei possibili, però non so se guardare Piccola Posta, Le Signorine dello 04, perché questa sera per la me storia è del cinema, Franca... la storia del cinema questa che... sera serata Franca Valeria a casa mia, assolutamente, per forza, assolutamente, ma penso che non sarai l'unica, non penso proprio oltretutto... passeremo una serata leggera ma intelligente, cosa secondo me molto è l'abbinamento che in qualche modo che meglio valorizza l'arte di per sé. Vabbè. Comunque, Franca Valeri oltretutto ha avuto, voglio dire, una vita non semplice all'inizio. Scappò con la madre durante la guerra, insomma, ha conosciuto, e forse questo anche è stato poi, diciamo, il motivo di capire il genere umano e saperlo interpretare appunto con questa leggerezza. Appunto leggevo che è nata il 31 luglio del 1920, aveva visto Mussolini in Piazzale Loreto e disse: non mi fece pena, da ebrea ho sofferto. Lei ha raccontato più volte questa scena, no? Sì, lei era nata in una famiglia borghese milanese e la mamma era cattolica e il papà era ebreo. La mamma non era ben vista dai parenti del marito perché appunto non ebrea, la mamma era cattolica e il papà era ebreo, ma in ogni caso Franca Valeri si trovò privata dei diritti fondamentali per le leggi razziali del 38. Il padre e il fratello si rifugiarono in Svizzera nel 43. Franca era rimasta a Milano con la mamma grazie a una carta d'identità falsa. Insomma, sono cose che segnano. Chiaramente. Sì, in questo, sì, per un artista, chiaramente poi però diventano un serbatoio di energia, di significati dal quale era attingere. Per prendersi in giro, il suo primo ruolo è quello di un'ebrea innamorata di un rabbino. Quindi diciamo che la sua ironia e autoironia l'hanno segnata fin dall'inizio. Allora, resta qua Marta, resta qua. Abbiamo in linea, vediamo se lo riconosci. Buonasera Beppe Carletti, lo riconosci? Buonasera, beh, chiaro, l'ho presentato. Voi. Ho detto un'ovvietà. Buonasera. Beppe Carletti, buonasera Marta. L'avrei riconosciuto comunque perché è incomponibile. Però non potevo voglio dire farlo entrare senza chiamarlo. Era un po' difficile, ho provato, ma non ce l'ho fatta. Beppe Carletti, buonasera e grazie. Buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie a voi. Grazie per aver voluto così partecipare in questo ultimo segmento di Effetto Notte Estate, appunto, al nostro diario del giorno. Beppe Carletti, voi dei Nomadi in qualche modo date un segno di vitalità, avete ripreso a fare i concerti, non vi fermerete praticamente per un po'. Che emozione è stata quella di tornare sul palco dopo tutto quello che è accaduto? Beh, è banale dire che è stata una grande emozione perché è scontato, insomma. È stato veramente bello poi vedere tutta la gente lì che non così che con gli occhi sbranati, caso di dirlo, perché era lì che ti guardavano e ti avrebbero mangiato anche con gli occhi, tanto la loro soddisfazione nel vederci sul palco e la nostra gioia di salirci sul palco. Ecco, sentite emozionante. Sentite una responsabilità ulteriore in questo momento a salire sul palco? Beh, direi di sì, perché io credo che la responsabilità è di riuscire a dare un segnale importante, un segnale di vita. E questa è una responsabilità che noi ci siamo messi sulle spalle e pensiamo di portarla avanti nel modo giusto. Noi finora abbiamo fatto 2 esibizioni, sono state sold out per nostra fortuna, per il piacere anche di chi ha organizzato, ed è stata una grande soddisfazione. Io mi auguro, spero che tutto continui così. Noi ne avremo circa più di 10 in agosto, sono tantissimi. È una grande soddisfazione che la gente ci vuole, ci cerca, e noi cerchiamo di contraccambiare con le nostre canzoni, con la nostra voglia di stare sul palco e di dare emozioni, perché la musica deve dare emozioni. Marta, la domanda è tua. Allora, la cosa meravigliosa dei Nomadi è che i loro fan sono una famiglia, i raduni sì. dei fan dei Nomadi sono delle esperienze mistiche. Però Beppe Carletti ha sottolineato in più di un'intervista che anche i Nomadi sono una famiglia, e coloro che lavorano attorno ai concerti dei Nomadi sono una famiglia e hanno delle famiglie. Ancora una volta l'importanza di far capire quante persone lavorano attorno a un gruppo musicale. Beppe, è importante far ripartire gli spettacoli anche per tutte le persone che, per le quali lo spettacolo è un lavoro, è il lavoro. Il lavoro. Beh, guardate, molto semplicemente, noi ci siamo autoridotti il nostro cachet, ma l'abbiamo lasciato intatto quello dei tecnici. Perché sì, perché è giusto, perché sono quelli che faticano maggiormente, sono quelli che forse hanno sofferto di più nel fatto del non lavoro. E noi siamo partiti con questa intenzione qua, io vedo che molti ci stanno seguendo, è chiaro che l'autoridursi il cachet non è vuol dire suonare di meno, non è vuol dire andare là con solo due strumenti, vuol dire andare là come se fosse una piazza con 10.000 persone, sapendo benissimo che ce ne sono solo 1.000. Noi abbiamo fatto questo, ci abbiamo creduto, la gente ci crede, noi non è che per un vanto, ma direi che siamo stati i primi ad urlare, che i ragazzi che fanno sì che l'artista salga sul palco sono importanti quanto l'artista. Perché senza di loro, senza chi monta il palco, senza chi monta gli strumenti, senza chi fa i suoni, queste cose qua, noi non potremmo fare quasi niente. Insomma, quindi direi che il grande applauso che io faccio personalmente sono a tutti i tecnici, a tutti i ragazzi, a tutti veramente, dai facchini, gli autisti, dai tir. E poi, insomma, c'è tutto un indotto che è incredibile, insomma, bisogna tenerne conto. Noi siamo orgogliosi di averne tenuto conto subito e siamo partiti, ci crediamo e speriamo veramente che questa esperienza nuova, anche per me che sono ormai più di mezzo secolo che vado sul palco, è un'esperienza veramente che ha dell'incredibile, che lascia sicuramente, mi lascerà un segno di tutto questo. E spero però che lasci un bel segno anche nel cuore delle persone. Grande, grande, grande Beppe Carletti, Nomadi, grande Marta grazie, Cagnola, grazie. Grazie. Grazie Andrea, buona serata. Buona serata. Sono gli ultimi secondi di questa settimana di Effetto Notte Estate, le 20, 26 e 52 secondi, in regia Valeria Bernardi, in redazione in assistenza Valentina Ternullo e Alessandro Schirano. Al microfono vi ha parlato Andrea Ferro, noi ci risentiremo lunedì in diretta dal Ponte di Genova, qui in studio ci sarà Enrico Pagliarin. Buon fine settimana a tutti.